In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Data Center, Trust Services e tecnologie cloud enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. Quando raccontiamo di sport, noi non parliamo degli sportivi in quanto vincitori, noi vogliamo cercare persone che in carriera hanno lasciato il segno grazie alle loro qualità umane, ci hanno emozionato anche magari se hanno vinto meno di altri. E per iniziare la puntata di oggi noi partiamo da un luogo che per gli appassionati di motori è più che una città brianzola a pochi minuti da Milano, perché partiamo dall'autodromo di Monza, uno dei templi della velocità e della leggenda. Domenica 6 settembre 1970, un giorno che per tanti italiani può significare la fine delle vacanze, il ritorno al lavoro, a scuola, sugli spalti, attorno alla pista di Monza ci sono le bandiere rosse col cavallino rampante, sono migliaia, siamo all'ultimo giro del Gran Premio. In testa c'è una Ferrari al numero 4 disegnata sul muso, sarà lei a tagliare il traguardo per prima sotto la bandiera a scacchi. La sta guidando il protagonista della nostra storia di oggi. Quel 6 settembre lui festeggia per la prima volta una vittoria in Formula 1 a bordo di una Ferrari, alza il braccio, riceve il saluto del pubblico, del suo pubblico che è arrivato dal Canton Ticino, e lui è svizzero di Lugano. Da quel giorno diventerà ancora di più italiano, e all'anagrafe fa Gian Claudio, per tutti è Clay il cognome. Regazzoni. Viveur, danseur, calciatore, tennista e a tempo perso, pilota. Così ho definito Clay Regazzoni, il brillante, intramontabile Clay, ospite d'onore ideale per le più disparate manifestazioni alla moda, grande risorsa dei rotocalchi femminili. Enzo Ferrari lo descrive così il protagonista della nostra storia di oggi. Sono parole che non fanno una piega, anche se per noi la definizione pilota a tempo perso non è una definizione azzeccatissima, perché lui poi è un pilota vero, è uno che sa come si corre sulla pista e sa anche come si corre nella vita, si prende rischi, va avanti e il più veloce possibile, è uno che in tutta la sua esistenza ha saputo apprezzare le cose belle, ha lottato con le unghie e con i denti, si è rimesso in pista nei momenti di difficoltà, non ha perso mai la speranza. Insomma, quella di Clay Regazzoni è stata veramente una vita straordinaria. Gian Claudio Regazzoni nasce a Lugano 5 settembre 1939, quattro giorni dopo l'invasione della Polonia da parte della Germania. La seconda guerra mondiale è iniziata in Svizzera e il governo è ovviamente svizzero, quindi pragmatico, ordina di convertire ogni campo disponibile alla coltivazione delle patate, cioè male che vada abbiamo da mangiare. E i Regazzoni peraltro vivono nel Canton Ticino, siamo nella Svizzera italiana. Pio Regazzoni è il padre di Clay, ha una carrozzeria e è anche il sindaco di Porza, che è il paese dove lui vive con la famiglia. Gian Claudio diventerà Clay solo dopo essere diventato grande. Lui studia a Lugano, viene inserito nell'attività del padre e ha una passione terribile per i motori, per le corse, e quindi lavorare in officina è il suo pane, lo aiuta a scoprire tutti i segreti delle automobili. Però il suo destino non sarà dentro un'officina, perché ha una personalità diversa, vuole mettersi al volante, vuole correre le gare, si iscrive ai campionati svizzeri di velocità, soprattutto in salita. su strade cittadine, raramente va nei circuiti, anche perché in Svizzera praticamente non ce ne sono. Fa la gavetta, comincia con i go-kart, poi sbarca nelle categorie minori, arriva alla Formula 3, comincia a dimostrare lì di che pasta è fatto quando indossa il casco. È difficile batterlo. Lui sa che ci sono due modi per arrivare in alto: o comprarsi un posto in una scuderia, oppure andare sempre più forte e sperare che qualcuno si accorga delle sue qualità. Lui non è un miliardario, quindi deve scegliere la seconda via, va forte, vince, e poi c'è questo suo personaggio che fa il resto, questo baffo particolare, sembra timido e silenzioso, e poi invece è un uomo di grande fascino e le donne se ne accorgono ben presto. Però in questo momento della sua carriera l'obiettivo principale è quello di conquistarsi il posto in una scuderia, e non importa quale, lui vuole trovare qualcuno disposto a dargli una macchina per farlo correre. L'occasione tanto attesa arriva dal cielo in un giorno di gennaio del 69, sono le 8 di sera, squilla il telefono di casa Regazzoni, cercano Clay, telefonata che dura qualche minuto. Poco dopo lui è già in macchina, passa a prendere un amico via verso l'inizio della sua vera carriera da pilota. Il tempo impiegato quel giorno sul percorso da Milano a Modena credo sia rimasto il mio record assoluto. Casello, pagamento e poi a tutto gas nella circonvallazione. Una direzione che conoscevo bene. Non dirmi che stiamo andando alla Ferrari. Io sto andando alla Ferrari, tu resti giù, non entri. Ma mi stai prendendo in giro? No, mi ha convocato Enzo Ferrari. Vuole che corra per lui in Formula 2. E poi magari, se vado forte, c'è una possibilità nei prototipi e in Formula 1. Mi mollò come un pacco della DHL, dinanzi a un bar di Maranello. Aspettami qui, mi ha detto. Ne avrò per un po', almeno potrai fare colazione. Io ho preso un succo d'arancia a casa, spero che in Ferrari mi offrano un caffè. Ciao, ci vediamo dopo. Non muoverti. L'amico che lui passò a prendere era Pino Allievi, storica firma del mondo dei motori per la Gazzetta dello Sport. È lui che viene caricato in macchina perché Clay vuole compagnia per andare a Maranello, non che lui temesse di annoiarsi, perché da Lugano a Maranello ci mette un'ora e mezza, passa dalla corsia d'emergenza a quella di sorpasso, media oraria vicino ai 180 chilometri. Insomma, Allievi alla fine del viaggio è provato e Clay è fresco come una rosa. La vita di Clay sta cambiando da tutti i punti di vista, peraltro, perché si è sposato da poco con Maria Pia, è nata la loro prima figlia e insomma la chiamata della Ferrari è veramente la ciliegina sulla torta. Fa dei giri di prova con la rossa in Formula 2 e poi torna al bar a riprendere Allievi che lo stava aspettando. Tornò a prendermi verso mezzogiorno, emozionatissimo, al settimo cielo. Chiese al barista se poteva telefonare e con una valanga di gettoni chiamò prima la moglie e poi il papà per comunicare la notizia della firma del contratto. Ero orgoglioso per lui, non stavo nella pelle. Peraltro i risultati in Formula 2 con la Ferrari non sono quelli sperati, anche per colpa della macchina che non era esattamente a punto. Torna alla sua vecchia scuderia, la Tecno, ma Enzo Ferrari non si era dimenticato di quel pilota con quello stile di guida aggressivo, pronto a dare tutto. Non a caso veniva soprannominato Kamikaze o Dead Devil Driver. Insomma, il rapporto tra Clay e Ferrari era già di stima reciproca. Insomma, non hanno difficoltà a incontrarsi i due, a ritrovarsi. Regazzoni viene scelto dal Drake, dal commendatore, per correre contemporaneamente in Formula 2 e in Formula 1. Lui accetta senza esitazioni e si avvera il suo sogno: gareggiare per le rosse e Formula 1 al volante di una Ferrari. Le prime gare della stagione sono buone, poi arriva quell'apoteosi dalla quale siamo partiti, 6 settembre 1970, Monza. Lui lì diventa il beniamino per milioni di svizzeri e di italiani, lo racconta anche il giornalista Cesare De Agostini alla televisione svizzera. Era il quarto Gran Premio che disputava X, che era il suo caposquadra alla Ferrari. Jackie X in un'intervista ha detto: Clay è forte, molto forte. È lì scritto: E poi si è lamentato di una cosa, dice, avevo un grosso problema e nessuno sapeva e non potevo dirlo, non potevo comunicarlo al mio box. Lo specchietto retrovisore si era spezzato, non poteva vedere di dietro, e Stewart di dietro era a pochissimo, a qualche decimo, non di più. No, lui non poteva rendersi conto di quello che sta, dice, quella è stata la vera prova, la vera difficoltà di quel Gran Premio. E poi è salito, e poi ha fatto lo Sputnik. È salito, era un Saturno, proprio, era un collo. Quel fine settimana del Gran Premio di Monza 1970 rimarrà nella mente degli appassionati per due motivi. Uno meraviglioso, appunto, la vittoria di Clay Regazzoni, e uno tragico, perché in quel weekend morirà Jochen Rindt. Tutto questo, insomma, ci ricorda ancora una volta, se ne avessimo bisogno, quanto la vita sia appesa a un filo, in particolare in quegli anni la vita dei piloti. Eh sì, perché il giorno prima, durante le prove, si erano rotti i freni della Lotus di Jochen Rindt, che era andato a schiantarsi contro il guardrail all'imbocco della curva parabolica, che in quei momenti era uno dei punti più veloci di tutto il circuito. I soccorritori arrivano sul luogo dell'incidente, ma c'è poco da fare, Rindt sta morendo, il piantone dello sterzo gli ha trafitto lo sterno, il piede sinistro è stato tranciato di netto, non è più attaccato al resto della gamba, insomma Rindt muore durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Niguarda. Questo non fermerà il circo della Formula 1, the show must go on. I piloti sono impressionati, però in quegli anni c'è l'abitudine a vedere la morte in pista. Ogni anno uno se ne andava, veniva scelto dal destino, e lì i piloti sanno che quello è uno dei rischi del loro mestiere, scelgono di correre lo stesso, e la gara verrà vinta proprio da Clay al suo primo successo in Formula 1, e per Clay è la definitiva consacrazione di fronte agli occhi dei tifosi e degli altri piloti, che peraltro già lo rispettavano per la sua grande professionalità. Da quel momento lui diventa uno di vertice, ha dimostrato a tutti che se Ferrari lo ha scelto avrà avuto dei buoni motivi. La Ferrari non si arriva con la valigetta, arrivi pagato. O poco o tanto ti pagano. Alla Ferrari è sempre successo così, per cui hai già capito la differenza tra il pilota pagante e il pilota assunto. Ti assumono, alla Ferrari ti assumevano, dopo prendevano anche loro le cantonate, perché ci credevano a una persona, a un pilota, in funzione delle prestazioni che davi alla loro squadra, eventualmente i risultati, perché altrimenti tu in Ferrari non ci arrivavi. Il Regazzoni è arrivato per le sue capacità. Il vecchio, come del solito faceva, quando lui vedeva un personaggio pilota che lui reputava all'altezza di guidare le sue macchine, cercava di tutto per assumerlo. Non è che è arrivato Regazzoni perché ha chiamato il sottosegretario o il Papa. Tutti gli altri team, tu dovevi arrivare o con tanto o con poco, con il denaro. Hai capito? Perché vivevano col denaro del pilota pagante. Arturo Merzario, personaggio schietto, molto aperto, è uno che dice quello che pensa, e dice che Regazzoni è stato chiamato da Enzo Ferrari in persona proprio perché Ferrari aveva riconosciuto in lui un pilota dallo stile di guida unico, un uomo pieno di passioni, di voglia di dare fino all'ultimo giro in pista e anche fuori. Quella vittoria a Monza rimarrà però un episodio isolato in quella stagione. Clay chiuderà il campionato al terzo posto dietro a X e a Rindt, che peraltro diventerà il primo e finora unico, speriamo che rimanga per sempre l'unico campione del mondo postumo della storia di Formula 1. Cioè, comunque, anche dopo la morte di Rindt nessuno riesce a superarlo nei punteggi. Regazzoni però nel frattempo si è guadagnato la totale fiducia di Ferrari, che lo farà correre anche nei campionati di durata dei prototipi. I risultati cominciano a scarseggiare. Nel 73 lui diventerà uomo BRM e conoscerà un pilota austriaco dalle idee molto chiare nella testa, Niki Lauda. Quando Regazzoni verrà di nuovo richiamato da Ferrari, se lo porterà dietro Lauda, pur sapendo che quel ragazzo poi un giorno gli darà del filo da torcere. Clay aveva in sé delle potenzialità maggiori di quelle di Lauda. Se le avesse curate di più, se avesse avuto un temperamento tedesco come Lauda, sarebbe andato molto oltre. E infatti Clay ha detto queste testuali parole: «Dovrei essere molto critico con me stesso, perché avrei potuto raccogliere molto di più». Questo era Clay. Cesare De Agostini ci racconta quanto Regazzoni fosse il contrario esatto rispetto a Lauda, il suo compagno alla Ferrari. E Clay è molto simile alla maggior parte dei piloti di quell'epoca, gente che viveva una vita tipo star di Hollywood, molto sregolata. James Hunt mi viene in mente, per esempio. Erano più delle rock star che non degli sportivi, non solo per la notorietà ma anche per il fascino che riuscivano a suscitare nel pubblico e soprattutto nelle donne. Clay Regazzoni è tante cose: è uno professionale ma è anche pigro, è irascibile ma è anche amabile, è un Latin lover, Swiss lover, non so come dire, comunque è un conquistatore di donne, ma è anche un grande padre di famiglia, una personalità complessa, però è un vero uomo di sport. Come detto, lo sport è sempre piaciuto molto. All'inizio mi piaceva molto giocare al calcio, la mia passione era il calcio, poi sono arrivato allo sport così indirettamente, come ormai lo sapete, non tanto per mia volontà ma per conoscenze. Però penso che se dovessi ritornare farei ancora questo, perché l'automobilismo veramente è stato per me una cosa importante. E ti ha dato anche delle grandi soddisfazioni, ma più materiali o più morali? Più morali, innanzitutto mi ha dato la possibilità di girare il mondo, di conoscere la gente. Se fossi rimasto qua, vivendo qua, non avresti potuto avere questo bagaglio, no? È molto importante per conoscere i problemi. E Clay sarà per sempre riconoscente a Enzo Ferrari, che gli ha dato la possibilità di guidare la sua macchina in Formula 1, però non gli andrà mai del tutto giù il trattamento che gli è stato riservato dopo l'incidente di Lauda al Nürburgring nel 1976, ricordate, ne abbiamo già parlato. L'austriaco sembrava non potesse rientrare presto in pista, la Ferrari ingaggia anche Carlos Reutemann, l'argentino Reutemann, per sostituirlo. Lauda torna già a Monza, spiazza tutti, a meno di due mesi dallo schianto la Ferrari ha tre piloti, e io me lo ricordo perché andai per combinazione a veder girare la Ferrari a Maranello e c'erano tre Ferrari, tre rossi che correvano, deve saltare uno e quello che fa le spese di tutto è proprio Regazzoni, che comincia a girare per varie scuderie, prima la Ensign, poi la Shadow, poi la Williams, dove farà da secondo Alan Jones. Qui lui vincerà a Silverstone, la gara di casa peraltro della Williams, anche se tutto il team stava lavorando solo per Jones. Succedono queste cose, insomma, lui era ospite della sua squadra. Si racconta un episodio molto bello: a fine della corsa Clay non viene festeggiato da nessuno, passa davanti al patron Frank Williams e gli sussurra all'orecchio sorry. È una vera e propria finezza alla Clay Regazzoni. E poi c'è anche un secondo episodio che, visto col senno di poi, fa gelare il sangue, perché in occasione del suo 40° compleanno il team fa uno scherzo di pessimo gusto, un regalo insolito, siccome lo ritengono vecchio, diciamo, gli regalano una sedia a rotelle con due gomme da Formula 1 al posto delle classiche ruote. Sarà un presagio terribile per l'inizio della seconda vita di Clay Regazzoni. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un uomo che ha vissuto per correre, Clay Regazzoni, svizzero di nascita ma italiano d'adozione. Entra nel mondo della Formula 1 tardi, corre il suo primo mondiale del 70 quando ha già 31 anni, viene scelto da Enzo Ferrari in persona, va forte in pista, ha uno stile di guida che fa innamorare i tifosi di tutte le scuderie per le quali corre, 10 anni di Formula 1 con un bruttino, un po' sbilanciato per la passione che ci ha messo, ma anche per i risultati, per i tifosi. Solo 5 gran premi vinti, 4 con la Ferrari e 1 con la Williams. È arrivato a 40 anni, non ha la minima intenzione di lasciare il volante e di dedicarsi a altro, lo racconta proprio lui in un'intervista dell'epoca. Ma io non so, la gente dicono sono vecchio, leggendo gli ultimi resoconti della stampa, il nonno, non il nonno, però io penso che un uomo a 40 anni sia nel meglio delle sue facoltà anche sportive. Io vedo degli atleti che fanno degli sport molto più dispendiosi come energia e l'automobilismo, diciamo dell'età media, 35 anni, sono nei momenti dove rendono molto. Quindi non è che il riflesso venga a mancare con l'età? No, assolutamente. Poi lo sport automobilismo è molta esperienza, guidare una vettura con dei grossi potenze, l'esperienza è molto importante, quindi quell'esperienza non si può avere a 20 anni. Ma proprio quando ha 40 anni la vita di Regazzoni cambia per sempre. Siamo a Long Beach in California, gran premio di Formula 1. Regazzoni, dopo l'esperienza alla Williams, è tornato alla Insigne, che è insomma una marca, è una squadra di secondo piano, e infatti l'inizio del campionato non è dei migliori, nessun punto conquistato, e il 30 marzo dell'80 lui sembra avere qualcosa in più, sta lottando per i primi posti fino a quel giro numero 51. La macchina che non frena più esce di pista e si va a schiantare a 250 all'ora contro l'auto di un pilota che si era ritirato e che era stata abbandonata colpevolmente a bordo pista. La vita di Clay cambia totalmente, ce lo racconta la moglie Maria Pia. Oltre alla paralisi aveva una gamba piena di olio, dunque nella ferita era entrato tutto l'olio del motore, e anche lì si rischiava di amputare la gamba. E quelli lì sono stati veramente dei momenti molto tragici. Dopo l'incidente, Regazzoni viene portato di corsa a St. Mary Hospital di Long Beach. La botta è stata terribile, i freni che hanno ceduto, come era successo a Rindt una decina d'anni prima durante le qualifiche di quel Gran Premio di Monza che Clay aveva vinto. Regazzoni cerca di rallentare la corsa costeggiando un muretto, ce l'avrebbe fatta, e però davanti a lui a un certo punto appare la sagoma di una macchina guasta che è abbandonata lì da un pilota ritirato. Nessuno aveva pensato di rimuoverla e Regazzoni non può evitarla, si schianta a tutta velocità e dall'incidente uscirà miracolosamente vivo, con le gambe spezzate ma comunque vivo. Leggi che cosa mi scrive questa tizia, e guarda questa che mi ha mandato una sua foto in bikini, com'è brutta. Un'ora a curiosare tra messaggi in tutte le lingue, a ridere, a commentare. Clay allegro, assolutamente non conscio del fatto che non sarebbe più tornato a camminare. Tutte stronzate, io tra un mese sarò in piedi. Il giorno dopo erano arrivati la moglie Maria Pia e il fratello Mauro. Ciao Clay, come stai? Sto bene, oggi vado a giocare a tennis. Tanta voglia di sdrammatizzare, sollevare il morale di chi gli era accanto. Sul comodino c'erano gli ultimi telegrammi, tra cui quello di Enzo Ferrari. Abbiamo litigato spesso, però ci siamo sempre voluti bene. Un altro biglietto di auguri portava la firma di Sandro Mazzola. E questo episodio, che racconta Pino Allievi nel libro Vite di Corsa, ci fa capire di che pasta è fatto Clay. Dopo l'incidente è lui che tira su di morale chi gli sta intorno, e non è il contrario. Il suo ottimismo e la sua voglia di vivere lo spingono a credere in un recupero veloce e miracoloso. Lui vuole il prima possibile tornare in piedi sulle sue gambe. Viene trasferito a Basilea in un centro di recupero e rimarrà lì per mesi interi. Non perderà la voglia di progettare, di ricominciare il prima possibile, di lottare giorno dopo giorno per tornare a essere quello di prima, per rimettere in pista non solo se stesso ma anche tutte le persone che si trovano nelle sue condizioni. Perché è capitato proprio a me? Non lo so, però vado avanti. Ho scoperto un mondo, quello dei paraplegici, per il quale intendo fare tante cose. Pensa, il centro di Basilea, che ha solo 80 posti, perde ogni anno 3 o 4 milioni di franchi e sono i privati a finanziarlo. Ma con tutto quello che spende la Svizzera in armamenti, possibile che non si possa destinare qualcosa a chi ha problemi di handicap? Basta poco per passare dall'altra parte. Una scivolata in discoteca con la spina dorsale che sbatte contro un tavolo, come è capitato ad una ragazza di Varese che era nella stanza vicino alla mia. O un incidente di corsa banale, perché alla fine il mio è stato un incidente banale. Banale e feroce. Troppo. Cosa farò a breve? Voglio andare a riposarmi ai Caraibi, a dicembre. E poi devo pensare ad un lavoro, ora che non posso più fare il pilota. E Clay, grazie ai mesi trascorsi al centro di recupero di Basilea, scopre, e spesso purtroppo accade così, ti scontri di fronte a una realtà. Lui vede un mondo che era sconosciuto per lui, quello dei paraplegici. Siamo negli anni 80, all'inizio degli anni 80, e sono ancora anni nei quali le persone che si muovono in carrozzella vengono viste come dei malati, quasi come delle vergogne da tenere chiuse in casa. E Clay all'improvviso, l'uomo che aveva vinto tutto nella vita, l'uomo idolatrato da tifosi e da donne, si trova nella loro stessa condizione, solo che lui ha delle possibilità, perché è stato un campione di Formula 1, ha una visibilità diversa rispetto a tanti altri che non possono far sentire la loro voce e che stanno vivendo in quella situazione. Allora non si perde d'animo, accetta la sua nuova condizione, cerca una cura, cerca una terapia, cerca di attaccarsi a una piccola speranza per poter tornare il prima possibile a camminare. Quasi ce la fa. Sono trascorsi 11 mesi e mezzo dall'incidente. Clay, seduto a letto, è raggiante. Ad un certo punto Maria Pia, la moglie, avverte che sta per scolare la pasta. Giampaolo Foletti, telecronista della TV della Svizzera italiana, regista dell'happening, indica i posti e mi schiaccia l'occhiolino. «Dai Clay, alzati!» gli dice perentorio. Clay, ancora sul letto, solleva una gamba di una quarantina di centimetri e gira il busto per scendere. La moglie e Foletti lo aiutano a sollevarsi. È in piedi, suda e con molta lentezza accenna a un passo, poi a un altro ancora. È sorretto, si muove e, sia pure a fatica, riesce a completare i 3-4 metri che lo separano dalla sedia. Ce l'ha fatta, quasi da solo. Incredibile. Scatta l'applauso. È la prima volta che vedo Clay sulle sue gambe dopo l'incidente. Sorride e, allargando le braccia, mi sussurra: «Sono tutti ottimisti. Io sono spettatore di me stesso e di questi progressi». Questi progressi fanno veramente pensare a un Clay ragazzone in grado di tornare a camminare presto. Poi le speranze si spegneranno definitivamente qualche tempo dopo. Insomma, la cura non va come previsto, non si saprà mai bene cos'è successo davvero. Tornerà a guidare, ma con i comandi al volante, a portare la sua testimonianza, a tenere alta l'attenzione sulle condizioni di chi, come lui, non può più camminare. E Clay dimostra a tutti che non servono solo le gambe per guidare, ci vuole soprattutto la testa. Si gusterà ogni attimo sempre al 300%, vivrà la vita fino al suo ultimo giorno. Il falco e il gabbiano. Clay ragazzoni, dopo l'incidente di Long Beach non tornerà mai più a camminare, ma non smetterà mai di sognare. Lui accetta la sua nuova vita in carrozzella, comincia a fare tutto quello che aveva fatto prima, come se nulla fosse accaduto. Corre con un camion la Parigi-Dakar, poi partecipa a molte gare in pista e poi decide di dedicare tempo, attenzione al causa dei portatori di handicap, si direbbe oggi, dei paraplegici meno famosi, meno fortunati di lui, dimenticati da tutto e da tutti. Apre corsi di guida, diventa istruttore e insegna come si può andare veloci anche senza l'uso delle gambe. Lo fa con grande passione fino a quel 15 dicembre 2006. L'ex pilota della Ferrari Clay Regazzoni, 67 anni, è morto oggi in un incidente stradale. La monovolume sulla quale viaggiava è rimasta coinvolta in un tamponamento con un'altra vettura ed un tir sulla 1 Milano-Bologna in direzione sud, appena dopo lo svincolo per la 15 Parma-La Spezia. Era al volante di un Chrysler Voyager targato Monte Carlo con l'insegna Clay Regazzoni Swatch, la sua linea, e con lo stemma della manifestazione Coppa Città d'Oro di Bergamo. Clay Regazzoni si stava recando a Parma, dove questa sera al Teatro Regio era prevista la festa annuale del Club Italia, associazione che riunisce possessori e appassionati di auto storiche, della quale era uno dei soci fondatori. La festa è stata annullata. E Clay se n'è andato facendo quello che amava di più, se n'è andato guidando, anche senza aver bisogno delle gambe, stava correndo come aveva sempre fatto sull'autostrada, quell'autostrada che aveva percorso centinaia di volte da Lugano quando andava a Maranello per i test con la Ferrari. Quel 15 dicembre non era diretto a casa della Ferrari, ma a un evento, uno dei tanti ai quali non riusciva a dire di no. Lui si prestava totalmente per le causa alle quali teneva, andava da un angolo all'altro del mondo e quando poteva si muoveva in macchina da solo, come era sempre stato abituato a fare. Guidava forte, come se fosse ancora in pista probabilmente. Anche quel giorno del 2006 andava veloce e lui diceva per stare il meno possibile in mezzo alla nebbia. Quando qualcuno gli chiedeva di rallentare, lui rispondeva questo. E poi vicino a Parma il colpo di sonno, forse un malore, chi lo sa, lo schianto. Quando arriva l'ambulanza non c'è già più nulla da fare. L'autoradio, la compagna di mille avventure in solitaria al volante, l'autoradio era ancora accesa. Nel 2016, 10 anni dopo la sua scomparsa, la famiglia di Clay ha deciso di inaugurare la Clay Regazzoni Memorial Room, che non è un museo, o comunque non è un semplice museo, è un luogo dove respirare la vita di Clay, una vita di corsa a bordo delle automobili più veloci del mondo, una vita che si è trasformata per lui in impegno costante per tutti quelli che si erano ritrovati su una sedia a rotelle, ma meno famosi e meno fortunati di lui, insomma una vita a rappresentare anche tutti quelli che non avevano le sue possibilità e le sue occasioni per ricostruirsi una nuova vita. Abbiamo allestito questo Memorial Room per presentare l'arco della vita di Clay, il campione, ma soprattutto l'uomo che ha creduto fermamente nell'abbattimento delle barriere architettoniche, dedicando il suo impegno per liberare i giovani e meno dal loro handicap, per inserirli nella vita quotidiana, cercando di stimolare l'importanza degli investimenti nella ricerca in paraplegia in modo da abbandonare definitivamente la sedia a rotelle. Clay non ci ha mai fatto pesare la sua infermità, non si è mai lamentato, era sempre contento di ripartire per nuove sfide. Questa forza era in lui e per questo era un campione. Un uomo che nel vivere la vita ha dato dignità alla vita stessa. E come? Nel modo più semplice, che è viverla pieno ed intensamente. Il difficile però è proprio nella semplicità di queste parole, ma Clay lo ha fatto. Per me questo è un grande ringraziamento nei confronti di chi ci ha donato la vita stessa. E con queste parole Alessia Regazzoni ha voluto ricordare il padre uomo che ha vissuto ogni singolo minuto della sua vita a mille all'ora in pista e fuori. Ferrari lo dipingeva come pilota a tempo perso, era vero, perché lui era molto più che un pilota. Clay Regazzoni è stato uno che forse ha raccolto anche meno di quello che aveva seminato. Però intanto in Svizzera è stato nominato sportivo del secolo, ma in Italia lo ricordiamo tutti spinto dalla sua voglia di vivere, di correre. Ricordiamo quello che ha fatto prima del suo incidente, il grande personaggio della Formula 1, ma ricordiamo anche quello che ha fatto dopo a favore di tutte le persone che avevano avuto il suo tipo di sfortuna senza avere però né i suoi soldi né la sua visibilità. Insomma, un grande prima e dopo che ha saputo vivere a 100, a 1000 all'ora, al 300%, come diceva lui, entrambe le sue vite.